immancabile Like Awake, del quale segnalo un ultimo lavoro molto interessante, una mega suite di un'ora, di un'oretta circa, che manderemo presto da queste parti, lo salutiamo. E quindi noi andiamo ad iniziare con questo ultimo lavoro per un'artista a noi molto cara, Aïma, Aïma di ex Le Chemin Discordant, che questa volta si è prodotta in una collaborazione insieme a Illusion on Silence, partorendo Music for Certain Rituals, che già dal titolo dà un po' l'indicazione di quello che andremo a sentire, musica dall'ispirazione alquanto ritualistico sacrale, quelle atmosfere, diciamo, di religioni altre che ci piacciono molto qui a Prove Tecniche di Trasmissione. Questo album è uscito circa un mesetto fa e questa sera ci andiamo ad ascoltare To the Sea e To Victory. Thank you. le evocazioni ancestrali di I'm and the Illusion of Silence con questo Music for Certain Rituals, guarda caso. Veramente un fortissimo potere evocativo, prodotto, creato da Aima, insieme appunto a Illusion Silence, l'esordio per questa collaborazione, con dei tratti decisamente riconducibili agli splendori di Deccan Dance, compresa la parte vocale, veramente molto interessante, una grande voce questa da Aima. Per chi se li è persi, ricordiamo sia la carriera solista di Aima Project, ma anche Les Chemins Discordants insieme a Roberto Del Vecchio, ex Gotica, fecero 3 o 4 lavori veramente interessanti anche questi. E poi Roberto Del Vecchio è andato a fondare Shadow World, abbastanza diverso da quelle atmosfere. Musica sognante effettivamente per occhi chiusi. Saluto intanto il medico della peste, una buona performance quella che ha svolto qui a Roma la scorsa settimana. Un grosso abbraccio a Sasha Rovelli di Lucesia, una delle etichette più interessanti di quest'anno, che ci sta ascoltando da Bellinzona, quindi in Svizzera. Anche Naboy Sabacic, anche lui della Lucesia, ci sta ascoltando da quelle parti, un caldo abbraccio anche lui. E sempre nel nord, in Val d'Aosta, Jean-Claude Berthaud. Al pari della Lucesia, un'altra etichetta che a noi sta a cuore è naturalmente la Next Place Sounds Label, insieme a Late Tower Record e la Zero K, la novella etichetta fondata da Raffaele Pezzella. Un altro viaggio attraverso il materiale che ci proviene dai Balcani, un compendio che appunto va a riprendere progetti provenienti dalle terre che compongono quella parte d'Europa. Questa sera andiamo in Slovenia inizialmente con un nome alquanto difficile anche nella pronuncia, ci proveremo. È un acronimo che comunque significa Kautice in Stra Vilasten Kroguse Virstez. KSV, l'acronimo dietro il quale si cela Simon Search. Di lui ci ascolteremo Flux Density. sorta di tempesta industriale questo splendido brano per KSVL, KSV, è inutile che riprovo a recitarlo in sloveno, decisamente difficile. Già partito il brano successivo di questo progetto, dal nome Omori, che nulla a che vedere con l'omonimo videogame giapponese. I didn't realize how fast it all ceased to be. Saluto Maria D'Agostini qui a Roma e Andy Rivieni di Attualità Nera. Al fascino naturalmente ferale questo Omori rispetto all'atteggiamento più noise del progetto precedente. Saluto intanto Daniele Santagiuliana di Test in Volt, altra ottima musica proveniente dall'Italia. Un Raffaele Pezzella effettivamente troppo stacanovista. Tante compilation, tanti artisti prodotti, un vero e proprio macinatore il buon Raffaele, e io chiaramente non riesco a stargli appresso perché ogni disco merita tanti passaggi, perché c'è tanta arte nelle sue produzioni e quindi non si può sbolognare ogni disco con un passaggio e basta, e quindi è chiaro che mi soffermo per più puntate su ogni disco. Questo è il turno della musica proveniente dai Balcani, un'opera peraltro abbastanza vasta, perché c'è un CD fisico e altre 10 tracce circa, soltanto in formato digitale, naturalmente su Bandcamp. E Pezzella trova anche il tempo per curare i suoni dell'ultimo disco di Lupsi e Michael Bonaventure, Across the Blood, una bellissima collaborazione, veramente molto efficace, tra questi due talenti, l'uno proveniente da Udine e l'altro artista proveniente dalla Scozia. Perfetto. Ci ascoltiamo Dying Star, Night of Revelation e Flood. Ancora Loopsy, Michael Bonaventure, da questo Across the Blood. C'è da rimanere veramente ipnotizzati nel sentire queste magiche note partorite da Michael Bonaventure, che nasce come organista, come sintesista applicato all'avanguardia, e i riverberi chitarristici, gli arpeggi chitarristici di Lucia Cagliazza in arte Loopsy. Ringraziamo il fatto che si siano incontrati e che abbiano appunto dato alla luce questa Across the Blood, uno dei migliori dischi del 2020. Un'immagine anche di forza che dà la copertina per certi aspetti, che sta bene anche nella potenza sonora che emana questo disco in tutte le sue note, in tutti i suoi brani. Un vero e proprio viaggio, effettivamente, come viene descritto da Tabula Rasa, un viaggio mentale. E credo che entrambi, sia Michael e sia a Lucia, non dispiaccia essere accostati per un attimo a Prurient, il prossimo artista. Anche se secondo me loro non hanno nulla a che invidiare a questo talento in attività da molti, molti anni. Una sterminata produzione discografica, che anche nel 2019 ha dato, ci ha donato questo Noise for Halloween Night. Guarda caso ci avviciniamo proprio ad Halloween, 31 ottobre ovviamente, per chi interessa. Ma a me interessa soprattutto andarmi ad ascoltare due ottimi passaggi di questo album, ossia Coil of Vampires e Obituary Bright Moon. indubbiamente può aver spiazzato chi ha seguito Prurient in questi anni, un disco dal richiamo effettivamente gotico, soprattutto nella prima traccia, quel Coil of Vampire. Però c'era un organo veramente bello, gli organi sono veramente in primo piano in questa trasmissione. Mi è venuto in mente mentre sentivo il disco di Lupsi, Michael Bonaventure, anche l'organo di Anna von Auswolf, che andremo presto a sentire in questo spazio, il suo ultimo lavoro. Intanto saluto Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster e Wurnus Island, la storico industrial piemontese al pari di Attualità Nera. Ise Tual da Milano. E dunque Dominic Ferno ci ha sorpreso assai, personalmente però in modo positivo. Questo Noise for Halloween Night, naturalmente per la Hospital Productions, la sua etichetta. Cronache di guerra sono le caratteristiche dell'ultimo album di Rome, di Jerome Reuter. Di tanto in tanto lui tira fuori questi dischi con campionamenti di epoca. Sangue, sudore, morte. E in maniera più specifica, Garten und Strassen ha in copertina la Torre Eiffel di Parigi, e quindi viene toccata proprio la resistenza francese contro l'invasore nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Le cronache della guerra verranno fuori attraverso Espoir du Monde, Der Flaneur, La Jeunesse, Gott und Reich e La Nobile.